Rock FM presenta Country Skyline. E con puntualità svizzera questa sera, ladies and gentlemen, comincia Country Skyline. Country Skyline, l'appuntamento settimanale con la roots music e la country music. E siamo già all'anno numero 13, mi pare. Sì, beh, comunque è cominciato verso la fine del 1993. La prima volta che sono aperto la porta di Rock FM, anzi che la porta di Rock FM si è aperta per Maurizio Faulisi, è stato proprio per una trasmissione di country music, e questa continua ad andare in onda. Ha cambiato ogni tanto, nell'arco di 12-13 anni ha cambiato giornata, anzi serata. Ormai si è stabilita al martedì sera con replica al venerdì sera dalle 23 alle 24, proprio nel bel mezzo della fascia oraria che lo vede protagonista dalle 23 appunto alle 24, dal lunedì a venerdì con svariate trasmissioni, avrete sentito. Good Rockin' Tonight per chi ama il rock and roll, quello più anziano, ma sempre ottimo da ascoltare, quello che va dagli anni 40 agli anni 50. Dagli anni 60 in poi lo si può ascoltare invece in Garageland, dagli anni 60 ad oggi. E quindi questo è il mercoledì, e quindi Country Skyline, Roots Music, Country Music e tutto ciò che ci sta intorno. Il martedì con replica il venerdì. Siete pronti? Questa sera ve ne sparo un po' di molto interessanti, alcune cose più nuove, alcune altre più vecchie. Si spazierà nell'acustico e nell'elettrico, nel tradizionale e nel progressivo. Voglio darvi subito il numero di SMS, che è 338-6171-300, per raggiungere Faulisi in diretta, il quale vi risponderà volentieri immediatamente. Potete fare richieste, di informazioni, ma anche richieste che riguardano brani o artisti sui quali vorreste tanto che venisse dedicato un piccolo special, perché no? 338-6171-300, e se invece preferite utilizzare il vostro computer, l'indirizzo email è maurizio@radiorockfm.com. Siete pronti? Io sono pronto, e allora via! Brava, ha iniziato lei la trasmissione, Mrs. Gail Davis, che non è più una ragazzina, non l'è più da parecchio tempo. Nata il primo settembre del 1948 in Oklahoma, si è fatta conoscere negli anni 70, primi anni 80, come una delle artiste più determinate e più precise nel portare avanti la propria carriera. Sì, pensate che è stata una delle prime a prodursi, oltre che a suonare e cantare. e alcuni anni fa, diversi anni fa, ha voluto mettere insieme un Greatest Hits reincidendo tutti i suoi più grandi successi, naturalmente riprodotti ancora una volta da lei stessa. Un Greatest Hits che contiene 20 canzoni, dal quale abbiamo tratto questo classico della country music che si intitola Singing the Blues. That'll be me. Oh, ma stasera ci si diverte, ragazzi. Prodotto dal solito grande maestro che porta il nome di Pete Anderson, grande chitarrista oltre che ottimo produttore, che affibbia al bravo Dwight Yoakam quel profumo, quella produzione che profuma di anni 50. Ho detto anni 50, ho forse detto anni 50. Allora beccatevi questa Sarah Evans al debutto discografico nel 1997 con soli 26 anni. A soli 26 anni ha prodotto questo disco intitolato Three Chords and the Truth, che si è ispirato fortemente a proprio gli anni 50. Sentite questa che è il suo cavallo di battaglia per quanto riguarda il debutto discografico del 1997. Sarah Evans, Shame About That. Excuse me for my Shame About That. Al suo debutto discografico in realtà sembra davvero una veterana, 26 anni soltanto per Sarah Evans, Shame About That. Tratto da Three Chords and the Truth. Ciao Mauri, un saluto da Max degli Starlighties. Keep on spinning this shit, don't stop. E io rispondo, I cannot stop it, I cannot. Red Knuckles and the Trailblazers. I'm a one woman man. E questo è per gli Starlighters. If you told me that you love me, I would feel so proud. If you let me love you, honey, I'll holler out loud. I'll never love another. Even if I can, come to me, baby. I'm a one woman man. Won't you let me, baby, just to kind of hang around? I'll always love you, honey. I'll never let you down. One Woman Man. Questa era una vecchia canzone, un vecchio successo uscito dal repertorio di George Jones. Beh, in realtà l'hanno eseguita in tanti e sono pronto a scommettere che l'ha eseguita anche Max degli Starlighters, che tanto mi saluta e che tanto ricambio. Qui erano Red Knuckles and the Trailblazer, una band bluegrass, pensate, che si divertiva anche a incidere vecchie canzoni degli anni 40-50 in versione honky-tonkin' e ancora honky-tonkin' quello che ci ascoltiamo. George Jones arrivava dal Texas, Beaumont, Texas, classe 1931, ma non ascoltiamo George Jones, ascoltiamo certamente un'altra band texana che porta alta anche, porta avanti la tradizione dell'honky-tonk made in Texas come pochi altri sanno fare. Si chiamano Derailer. Lies, lies, lies, lies, lies. Derailers. Just without a doubt, now hangs above our love. It's causing my poor heart to break in two. Every time I look into your eyes, I see trusting you is making me a fool. Lies, lies, lies. Why am I surprised? Every time I look at you, I see it in your eyes. Little white ones I can handle. Baby, can't you see? I know now you were lying when you said that you loved me. ask where you've been, and they tell me you're playing me like a fool. You did something I would never do. I guess you never learned the golden rule. Lies, lies, lies. Why am I surprised? Every time I look at you, I see it in your eyes. The little white ones I could handle. Baby, can't you see? I don't know how you were. Lies, da Austin, Texas, erano i Derailers. E adesso voglio farvi ascoltare qualcosa. Beh, sono le 23.17, voglio ricordarvi che siete all'ascolto di Rock FM, nello specifico una trasmissione che porta il titolo, di Country Skyline, una trasmissione che tratta country music, ma dai, country music, honky tonk, ma anche bluegrass, all time, western swing, Cajun, Tex-Mex, insomma tutto ciò che sta... Che suona di tradizione, che profuma di tradizione, che può essere stato inciso negli anni 20, ma così come oggi, una lunghissima tradizione che piace ed è seguita anche in Italia, non dalle masse ma certamente da un buon numero, particolarmente nella zona dell'Emilia Romagna, dove c'è un buon seguito, c'è un'associazione che organizza concertini soprattutto di artisti texani, e ve ne parlerò magari più avanti nell'arco di questa trasmissione, che si può raggiungere via SMS componendo il 338-6171-300, 338-6171-300. E a proposito di SMS, me ne arriva una da Lorenzo di Livorno, che dice: sono al lavoro e mi piacerebbe ascoltare un pezzo bluegrass con un bel po' di banjo allegro, vorrei più spazio per la tua musica. Ok, va bene, lo faremo presente alla direzione. Non credo che il country music e il bluegrass che a te piace tanto possa conquistare il grande spazio all'interno di Rock FM. È già una realtà quella di Country Skyline, piuttosto anomala nel panorama nazionale della radiofonia, quindi accontentiamoci di quello che c'è, perché evidentemente è qualcosa di prezioso. Voglio farvi ascoltare un pezzo bluegrass di Doyle Lawson e Quicksilver, una cover di una canzone anni 60, e il numero di SMS, ve lo ripeto ancora perché c'è un motivo preciso, 338-6171-300, è una cover di un brano pop rock degli anni 60. Chi mi dice chi incise la versione originale si vedrà arrivare a casa un CD di country music davvero davvero davvero. 338-6171-300, beccatevi Doyle Lawson e Quicksilver, il titolo è Yellow River, una canzone strepitosa. Ascoltate il break, ascoltate gli assoli dei banjo, chitarra, quello di chitarra è pazzesco, ma anche di violino, di mandolino. Qui Doyle Lawson e Quicksilver sono davvero insuperabili. Yellow River. take my pace. I've got my papers, I've got my pay. So pack my bags and I'll be on my way to Yellow River. Put my gun down, the war is won. You can fill my glass, all the time has come. I'm going back to the place that I love, to Yellow River. Yellow River, Yellow River, it's in my mind and in my eyes. Yellow River, Yellow River, it's in my blood, it's a place I love. Got no time for explanations, got no time to lose. Tomorrow night you'll find me sleeping out beneath the moon at Yellow River. I'm so glad I'm still alive, and I've been gone for such a long time from Yellow River. I remember the nights were cool, and I can still see the water good, and I remember the girl that I knew from Yellow River. Yellow River, Yellow River, it's in my mind and in my eyes. Yellow River, Yellow River, it's in my blood, it's a place I love. I've got no time for explanations, got no time to lose. Tomorrow night you'll find me sleeping out beneath the moon at Yellow River. Yellow River, Doyle Lawson e Quicksilver. Giocate inviando il vostro messaggio dicendomi chi incise negli anni 60 la versione originale di Yellow River. Al numero di sms 338-6171-300 avete tempo fino alla conclusione della trasmissione. Yellow River 338-6171-300 è lo stesso numero che è stato utilizzato la scorsa settimana per richiedere un brano, uno a caso evidentemente, di Chris Ledoux. Io batto i tacchi e ubbidisco. The Fever, Chris Ledoux. choice. He's a different breed with a voice down deep inside, screaming he was born to ride. He's got a fever, fever, fever, fever. Yeah, fever makes you crazy cause it makes no sense. I'm hunting from your shadow out of self-defense. Indimenticabile, Chris Ledoux è davvero indimenticabile. Lo abbiamo ascoltato con Fever, Fever. Scarseggiano soltanto un paio di risposte, tra l'altro sbagliate. 338-6171-300. Componete questo numero per dirmi quale artista, quale gruppo incise negli anni 60 la versione originale di Yellow River che abbiamo ascoltato dai Doyle Lawson e Quicksilver in versione strepitosa bluegrass. Ora, dopo un rock and roll come quello di The Fever, inciso da Chris Ledoux, dal compianto Chris Ledoux, come si può, dopo tanta energia, dopo tanta grinta, andare avanti? No, bisogna voltare pagina, prendere qualcosa di più tranquillo. E Hal Ketchum, classe 1953, non arriva dal sud degli Stati Uniti, dove viene prodotta la gran parte della ottima country music che ascoltiamo in questa Country Skyline. No, lui è dello stato di New York. Ha inciso dischi a partire dal 1988, è praticamente un rapporto indivisibile con la Curb Records, per la quale incide da molti molti anni e per la quale ha inciso anche questo Greatest Hits. Anzi, diciamo che la Curb Records ha messo in piedi questo Greatest Hits per celebrare l'artista, che è decisamente seguito, ha un taglio cantautorale, vi piacerà. Il suo nome è Hal Ketchum. Small Town Saturday Night. Buon ascolto con Country Skyline. There's an Elvis movie on the marquee sign. We've all seen at least three times. Everybody's broke, Bobby's got a buck. Put $1 worth of gas in his pickup truck. We're going 90 miles an hour down a dead end road. What's a hurry, son? Where you gonna go? I'll have the moon, shoot out the light. It's a small town Saturday night. It's a small town Saturday night. Lucy's got a lipstick on a little too bright. Bobby's getting drunk and looking for a fight. Liquor on his breath, trouble on his mind. Well, Lucy's just a kid along for the ride. Got a six-pack of beer and a bottle of wine. Gotta be bad just to have a good time. They're gonna holler at the moon, shoot out the light. It's a small town Saturday night. It's a small town Saturday night. Bobby told Lucy the world ain't round. Drops off sharp at the edge of town. Lucy, you know the world must be flat. Cause when people leave town, they never come back. They go 90 miles an hour to the city limit sign. Put the pedal to the metal before they change their mind. Howl at the moon, shoot out the light. It's a small town Saturday night. Yeah, howl at the moon, shoot out the light. Yeah, it's a small town Saturday night. Small town Saturday night. Small town Saturday night. Small town Saturday night. Small town Saturday night. Small town Saturday night. Hal Ketchum, anche lui a Country Skyline.